Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A 30 anni la mia vita a Milano ha avuto un crollo inaspettato e ho capito che dovevo andarmene per un po'. La scelta è caduta sulla città italiana più diversa da Milano in ogni suo aspetto: Napoli. Mi chiamo Giuliano, sono di Milano e per vivere organizzo eventi e visite guidate su Leonardo da Vinci a Milano. Ci sono due notizie oggi, giovedì 20 di giugno 2013. La prima è che manca una settimana esatta all'evento finale del programma, che sarà esattamente giovedì prossimo, 27 giugno, qui dalla sede di Radio 24 in via Monterosa 91. Purtroppo, l'abbiamo già detto da qualche giorno, tutti i 600 posti a disposizione sono andati esauriti, quindi avete però l'occasione e la possibilità, se avete voglia e volete stare in casa davanti a un computer anche per un po', di collegarvi al sito di Radio 24 alle 21 e ci sarà un video streaming, una diretta, una sorta di camera fissa, mi pare che ci sia, che riprende quello che accade sul palco. La cosa buona è che anche se non ci siete quest'anno, forse è un pochettino più godibile il video streaming, perché succede qualcosa di più quest'anno sul palco rispetto all'anno scorso. Non ci sono solo io che racconto le 10 storie più rappresentative della stagione, ma ci saranno anche delle altre persone. Insomma, ci sarà un po' più di animazione sul palco del live di giovedì prossimo. La seconda notizia di oggi invece ha a che fare un po' come l'anno scorso, il finale della stagione. È successo un po' più tardi rispetto all'anno scorso quest'anno, ma è ufficialmente online e scaricabile gratuitamente l'ebook di questa stagione di Voi Siete Qui 2012 e 2013. Sono 101 storie scelte tra tutte quelle che sono arrivate, sono così come sono arrivate, sono quindi episodi di vita delle persone che avete sentito, magari vi siete persi perché non eravate all'ascolto e non vi eravate scaricati i podcast. Potete scaricarvi il tutto molto semplicemente attraverso il sito di Radio 24, attraverso la nostra pagina, quindi andate sul sito della radio, cercate Voi Siete Qui e ci trovate, scaricali. Aspetta un attimo che lo faccio anch'io immediatamente, così evito di dire boiate. Eccolo qua, è nella fascia di sinistra, trovate da una parte la possibilità di iscriversi al live, e appena sotto scarica il nuovo ebook di Voi Siete Qui, il meglio delle storie andate in onda in questa stagione 2012 e 2013. Sotto c'è quello della stagione scorsa, se per caso non ce l'avete ancora è ancora scaricabile. Quello nuovo invece lo riconoscete perché non ha la copertina, non è solo bianca, rossa e nera, ma è più multicolore. Vi ricordo che è in versione EPUB, quindi non è un PDF, dovete avere un tablet per poterla leggere. E però ne approfitto tra l'altro per ringraziare l'editore di questo ebook, che è narcissus.me, che è un editore di self-publishing. Quindi oltre a scaricarvi il nostro ebook, se avete voglia di pubblicarvi da voi un ebook perché avete un romanzo nel cassetto o nella cassettiera, potete andare su narcissus.me e fate con molta facilità, potete fare quello che hanno fatto decine di persone, che spesso ha funzionato. Guarda come si chiama quell'americano Tiziano. Ah, ok, ha ragione Bonini sempre, che dice ogni dieci, ogni singolo. Ok, Tiziano ricorda, fatelo pure, dice Tiziano. Però ricordatevi che ogni 10 che funzionano ce n'è un milione che non funziona. Però, insomma, avercelo pubblicato non fa mai male. Ricordo ancora, grazie a narcissus.me, andate sul sito di Radio 24, Voi Siete Qui, e scaricatevi l'ebook di questa stagione del programma 2012 e 2013. Raccontiamo la storia di Giuliano oggi. È una storia che racconta di una città. Giuliano è un milanese, come avete sentito, che adesso ci racconterà meglio perché e come è stato 9 mesi della sua vita a Napoli e come Napoli ha in qualche modo toccato profondamente la sua esistenza. Se avete voglia di raccontarci in diretta in che modo vi ha modificato quella città, anche se non siete di Napoli, forse soprattutto se non siete di Napoli, la vostra Napoli, 349-238-6666, oppure sul profilo Facebook o sul profilo Twitter del programma. Già ne sono arrivati di messaggi, soprattutto su Facebook, a parte quelli che dicono Napoli è sempre Napoli, Napoli mi ha stregato il cuore. C'è qualcuno che dice: sono di Verona e ogni anno devo per forza andare a Napoli, c'è qualcosa che mi ha stregato che mi attira ogni giorno di più. 349-238-6666. Questa qui è la storia di Giuliano. A 30 anni la mia vita a Milano ha avuto un crollo inaspettato e ho capito che dovevo andarmene per un po'. La scelta è caduta sulla città italiana più diversa da Milano in ogni suo aspetto: Napoli. Lì ho passato 9 mesi tra i più belli e intensi della mia esistenza, prima di ritornare a Milano, se non rigenerato, almeno carico di emozioni e di ricordi. La musica nelle strade, le chiese barocche, l'aria dolce, gli sguardi intensi, le birre sugli scogli, le pizze in strada e la vitale lotta quotidiana per la sopravvivenza. Oltre a quella curiosa sensazione di eccezionalità che ti dà l'essere uno dei pochi milanesi emigrati a Napoli, tanto che nel mio quartiere mi chiamavano semplicemente O Milanese. Avevo sempre vissuto a Milano e a un certo punto ho sentito assolutamente il bisogno di cambiare città e di proprio staccare da quella che era l'atmosfera milanese. Il mio quartiere era Forcella, il cuore più antico di Napoli. C'ero finito per caso, chiamando l'annuncio per una stanza super economica trovata all'università. La prima sera che sono entrato nella mia futura vita, ho notato molta agitazione. Le sentinelle si chiamavano tra loro in codice per segnalare una presenza sconosciuta. Sono andato a conoscere i miei nuovi coinquilini e già la mattina dopo le sentinelle mi ignoravano. Sapevano chi ero. Avevano probabilmente preso informazioni e quindi ero tornato invisibile. Sono cose che a leggerle possono fare impressione, ma a viverle risultano semplici. Troppo semplici. Il centro storico di Napoli è presidiato dalla camorra. E arrivando da 30 anni di ordinata vita milanese mi sono perfettamente adattato con una velocità che parla più di ogni altra cosa del vero potere della camorra. Rapidamente infatti mi sono abituato a considerarmi più sicuro nella mia via, dove il controllo del territorio era totale e non erano permesse rapine o aggressioni. Mi sentivo più sicuro lì che non nelle zone anonime, tipo la centralissima via Roma. In 6 mesi la polizia è entrata nella mia vita una sola volta, all'alba, per arrestare un rapinatore e portarlo via in fretta. Che poi, che cos'era esattamente la camorra per me? 3 o 4 guappi sempre fermi all'inizio della via, che si facevano gli affari loro. Qualche storia raccontata dai coinquilini, come quando avevano spezzato le gambe a uno del quarto piano che non pagava l'affitto, o quando c'era stata una sparatoria al quinto piano, oppure come il gentile inquilino del secondo piano fosse anche lui un ex camorrista che aveva lasciato la carriera per non finire ucciso. Però erano solo storie, chiacchiere davanti a un piatto di pasta e un bicchiere di rosso, in attesa di andare a Piazza San Domenico a passare la serata. Finché un giorno, entrando in casa, vengo chiamato dal signore del piano terra, che io chiamavo il portiere, anche se non era un portiere, però era seduto di fronte alla sua casa e osservava sempre tutto e tutti. Lo salutavo sempre, però facevo così con tutti, era la mia regola, salutavo i polacchi della fabbrica clandestina in cortile, i senegalesi del primo piano, gli studenti del terzo e i pakistani del secondo cortile. Il portiere un giorno mi chiama e mi dice a voce bassa: «Senti, c'è un problema, la signora del secondo piano, la vostra vicina, si è convinta che uno del vostro appartamento, uno out e sick, alto e magro, le fa le telefonate oscene nella notte». Eravamo solo in due nel mio appartamento a corrispondere alla descrizione di auto e sick e l'altro stava per traslocare. L'indiziato quindi restavo io. L'uomo continua e mi dice: «Dovete stare attento perché ha detto che vi farà picchiare». Io però ci ho messo una buona parola perché voi siete gentile, salutate sempre, per cui non dovete avere paura, state solo attento. Tranne che in quella sera in cui appunto mi sono sentito in pericolo effettivamente, no, una vera paura devo dire che non l'ho mai avuta, proprio perché paradossalmente la camorra ti fa sentire sicuro, è questa la cosa veramente subdola in qualche modo della situazione di Napoli in questo momento. Solo in quel momento ho capito davvero che cos'era la camorra, un sistema che fa vivere bene fino al giorno in cui si può finire picchiati per nulla o salvati per un saluto. Porterò sempre quel periodo di Napoli nel cuore, e non solo per la bellezza struggente della città o l'intensità bruciante delle emozioni, ma perché solo vivendo, anche per un attimo, al fronte, ci si può rendere conto di quale guerra si stia consumando in Italia. Guarda Marin da luce in fiume, si astringa vera, non va in terra, nessuno sa mai che ruta, mare anello, sim, cresciute, zingara, nanna mai ruta, fanno in milizia, va a mantenere i vizi, esorda all'oro, è preto prezioso, vizi, sto sanzioso, che dici ancora, perché se una tupata mora, se fa verna, rinde in casa, bella e buona, o suonare i disco, sento vieta, si scarinde niente, tutt'in da luce, guarda rinde, è in per niente, per tramente, chi ci sente, regna tribunale, bene o male, normale, vivo vita normale, condizionata una condizionale, cure pochi modi e dormo una nuova, proprio come c'è gentile rire e muove vivo, mi scrivo schifo e si incapisce, come compiatisci, tu canzi nessuno, canti scite, canubito. Si presenta come Philip Müller, l'uomo che la notte del 3 settembre 1786 sale su un carro postale a Karlsbad, in direzione Italia. In realtà però si chiama John Wolfgang von Goethe ed è l'intellettuale più acclamato e corteggiato della Germania. Goethe vuole visitare l'Italia per tuffarsi nell'epoca classica, di cui è uno studioso ed è un ammiratore. Inevitabilmente però non può, nei suoi diari, non parlare dell'Italia che vede intorno a sé e degli italiani che incontra. Die Italianische Reise è probabilmente la fotografia più dettagliata e vivida dell'Italia e dell'italianità di fine Settecento, raccontata per mano di un tedesco. Il viaggio di Goethe, che attraversa la penisola, dura 2 anni e attraversa svariate regioni, paesi, città, passa da Verona, Vicenza al nord, Padova, Venezia e poi Ferrara, Cento, Bologna, Firenze, Roma, Palermo, Catania, Taormina, poi di nuovo su, fino a Milano. Una delle tappe fondamentali però del viaggio di Goethe è ovviamente Napoli. Ci trascorre 2 periodi diversi, 1 mese il primo e 2 settimane il secondo. Napoli è una città che lo abbaglia, si innamora del posto e dei suoi abitanti, la gira in ogni angolo e quartieri. La frase «Vedi Napoli e poi muori» è sua ed è la frase più famosa riguardo a questa città. Sono molte però le cose che scrive per raccontare Napoli. «Non si può né raccontare né descrivere», dice Goethe, «la magnificenza d'un chiaro di luna come quelli di cui abbiamo goduto col vagare qua e là nelle strade, nelle piazze, per la riviera di Chiaia, la grande e straordinaria passeggiata e poi giù, in riva al mare. Si è veramente presi dal senso di immensità dello spazio». Così vale la pena di sognare. La cosa che però più stupisce di tutte le sue considerazioni è che un poeta della sua fama e della sua capacità ripeta spesso come sia impossibile descrivere a parole lo splendore di Napoli. Si ha un bel dire, raccontare e dipingere, scrive nel diario. Sono cose al di sopra di tutto: la spiaggia, la baia, il golfo, il Vesuvio, la città, i castelli e le passeggiate. Goethe però si sofferma anche ad analizzare i metodi di lavoro di Napoli e di come oltre 200 anni fa ci fosse una grande organizzazione per lo smaltimento dei rifiuti. E usa queste parole. Moltissimi sono coloro, parte di mezza età, parte ancora ragazzi, per lo più vestiti poveramente, che trovano lavoro trasportando le immondizie fuori città, a dorso d'asino. Tutta la campagna che circonda Napoli è un solo giardino d'ortaggi ed è un godimento vedere le quantità incredibili di legumi che affluiscono nei giorni di mercato. E come gli uomini si diano da fare a riportare subito nei campi l'eccedenza respinta dai cuochi, accelerando in tal modo il circolo riproduttivo. Insomma, il più grande poeta tedesco, durante il suo grand tour tra le città che visita interamente giorno dopo giorno, decanta le lodi di Napoli, descrivendola come un Eden. Napoli è un paradiso, scrive. Si vive in una specie di ebbrezza e di oblio di se stessi. Ecco, dopo la storia di Giuliano, avevo voglia di vedere Napoli un po' con gli occhi di Goethe. E chi in do teatro ci fa sempre matina. Voglio asciasti mura, non faccio paura, sotto sti veste scura, c'è sta un creatura. Voglio asciasti mura, non faccio paura. Sotto sti veste scure, ride non riadure. Quando sento pronunciare Napoli mi attraversa sempre un brivido, scrive Alessia. Estate di 4 anni fa, viaggio in treno, Cuneo-Napoli con amici a trovare altri amici. È stata la vacanza più bella della mia vita, ho lasciato il cuore ai paesaggi della costiera sia napoletana che amalfitana, fino all'entroterra. Poi però ho lasciato anche il cuore tra le braccia di una di quelle amicizie, di quelle amiche che già conoscevo. La vera bellezza napoletana che ti strega. 1000 chilometri, troppi per condurre un amore così giovane. Alessia, 349-238-6666, in qualche modo Giuliano si è innamorato, forse è banale, è semplice dire che si è innamorato di quella città, però direi che dalla sua storia si capisce che probabilmente, non so dove e non so come, però quella città un pochettino l'ha cambiata. Pronto Giuliano? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Dove sei adesso? Milanese, purtroppo. No, vorrei essere a Napoli. Che sei milanese, l'ho capito, ma dove ti trovi? A casa, al lavoro? Sono a casa in questo istante, sì. Tu, scusa, dicevi che organizzi visite guidate su Leonardo? Sì, su Leonardo da Vinci. Siamo innamorati di Leonardo da Vinci, abbiamo fondato una società che si chiama Leonardo a Milano e organizziamo visite guidate al Cenacolo, eccetera. Quindi più milanese di così. Sei una guida, quindi, o no? Sì, organizzo guide, ogni tanto ne faccio anche io. E come va? È una startup, fammi dire. Sì, lo facciamo da tempo, ma siamo anche una startup. Ok, come va il lavoro? La cultura non è mai facile, però, però abbiamo delle belle soddisfazioni quando gli stranieri soprattutto si esaltano nel vedere le nostre cose. Infatti questa era l'altra domanda, chiaramente ha uno sbocco internazionale, no? Immagino, soprattutto. Per forza. Ok. Leonardo, quando è accaduta tutta questa questione di Napoli? Questi 9 mesi a Napoli, quando sono stati? Allora, sono successi nel 2003, quindi ahimè ben 10 anni fa. Ah, quindi tu adesso sei un uomo di 40 anni compiuti? Ebbene sì. Tu sei andato là, vabbè, non voglio sapere per quale motivo fosse un periodo brutto della tua vita, però insomma dovevi andartene da Milano, giusto? Sì, esatto. Beh, detta così sembra che avessi fatto una rapina qui. No. O dovessi scappare dai creditori. No, esatto. Semplicemente volevi cambiare aria per i fatti tuoi, esatto, immagino. Esatto, ok. Esatto. E all'epoca studiavi ancora? No, in verità già lavoravo e questo è sintomatico, per non creare problemi, diciamo, a Forcella mi sono comunque dovuto presentare come studente. Ecco, perché io credevo che andava a vivere in mezzo studenti, l'avrebbe dato in qualche modo perché nell'occhio. Perché tu dici che hai trovato l'annuncio in università, quindi sì, sei andato là, sì, però sì, dai, facevi altro. Comunque sapevo che era il posto dove trovare annunci facilmente. E cosa facevi, perdonami? Lì lavoravo grazie ad un amico napoletano, lavoravo insieme a lui nel suo studio, in verità per dei clienti milanesi. Vabbè, è un cane che si morde la coda, ovviamente. Napoli, Milano. E ti sei fatto questi 9 mesi napoletani. Sì. C'è una cosa che tu dici, lo dici anche abbastanza chiaramente, l'hai detta anche negli insert al telefono, che è una cosa che sembra quasi pericolosa da dire, no? Che è... sai cosa? Che quella sensazione lì in cui ci sono delle sentinelle che sono pagate da questo fantomatico entità, no? Che viene chiamata Camorra, fa sì che tu ti senta più sicuro lì. Nel senso che non è più che pericolosa, è una cosa probabilmente anche banale da dire, ma è il modo, correggimi se sbaglio perché davvero io ne so molto poco, è il modo in cui per il quale quella cosa lì funziona. È questo che mi ha veramente colpito, nel senso che, ripeto, io cresciuto a Milano, sempre imbevuto di ideali democratici e così via, mi ci sono adattato perfettamente. In verità a Napoli è servita anche molto a scoprire me stesso, nel senso che da un lato mi ha dato, ed è una cosa meravigliosa per cui io imporrei un anno di Napoli a tutti i milanesi, mi ha dato la forza della bellezza, della natura, anche della fisicità, della sensualità che ha quella città e che purtroppo spesso a Milano manca. Però contemporaneamente mi ha fatto anche scoprire aree di compromesso che in verità sono non mi aspettavo di avere, ma che invece sono state istantanee. Cioè per me il fatto di essere appunto più sicuro nella mia via che in altre vie era dovuto in verità alla presenza di questi personaggi che particolarmente diciamo piacevoli non erano, però rappresentavano la garanzia dell'ordine. Chiaro. E quindi cominciare a concepire secondo me la Camorra anche in questo suo potere, in questo servizio che effettivamente dà e che lo Stato assolutamente non garantiva almeno nel mio quartiere, io posso parlare soltanto della mia esperienza vissuta, è stato qualcosa che mi ha sorpreso. Chiaro, cioè che ti ha fatto capire delle cose. Giuliano, poi ti devo salutare perché sono un po' in ritardo. L'unica, chi è che faceva ste telefonate alla signora del secondo piano? Non si è mai saputo, se no l'avrei fatto picchiare. Giuliano, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Ti aspetto giovedì prossimo al live. Fantastico, grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Voi siete qui. Anche questa è strettissima la foto, come spesso capita con le foto che ci mandano gli ascoltatori che scrivono il racconto, che sono quindi autori e protagonisti della puntata. La foto di Giuliano è proprio strettissima, sembra in un parco o comunque in un luogo verde da quel quadratino che rimane oltre la sua faccia, alle sue spalle, degli alberi fuori fuoco. E in primissimo piano un pezzo di spalla con una camicia un po' spiegazzata e un viso con una barba un po' incolta, un po' nella moda di oggi, insomma, corta di 2-3 mm. Guarda da qualche parte, non si capisce bene che cosa e chi, sembra un po' perplesso e ha gli occhi azzurrissimi. Napoli. città italiana di 960.593 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e della regione Campania. Situata in posizione pressoché centrale nell'omonimo golfo, tra il Vesuvio e l'area vulcanica dei Campi Flegrei, è il terzo comune italiano per popolazione dopo Roma e Milano, nonché cuore di una delle aree metropolitane più popolose d'Europa. Fondata alla metà del XVIII secolo a.C., fu tra le città egemoni della Magna Grecia. Così seria, va bene? Sì, del resto, ma... ah, sì... Esattamente così, Mario, va benissimo così. Mi ha fatto venire voglia di leggere Goethe, Il viaggio in Italia. Mi scrive Marisa, che poi aggiunge: mi faresti entrare al live? Sembra San Gennaro che mi chiedono la grazia per entrare. È il mio compleanno e per quello non mi ero iscritta. Marisa, scusami un secondo, era il tuo compleanno anche quando ci si poteva iscrivere, giusto? Quindi cos'è che ti ha portato a cambiare idea? Il fatto che prima non avessi voglia di festeggiare il tuo compleanno e poi invece... oppure ti ha bucato un appuntamento, ti ha dato solo a qualcuno? Però se ti dico che ti faccio entrare, Elisa del marketing mi piomba in studio qui e mi stacca a morsi un pezzo di orecchio, quindi la vedo un po' complicata. Sono di... Pordenone. Quasi ogni settimana vado a Napoli per lavoro, faccio il camionista. La prima volta avevo il terrore, ora trovo la terra più felice e triste d'Italia. L'invidio per la semplicità sull'affrontare i problemi. Mi vergogno di avere avuto paura un tempo. Ciao Omar. 349-238-6666. Mi spiace che a qualcuno sia arrivato un messaggio evidentemente sbagliato, nel senso che non era chiaramente la mia intenzione, e sto rispondendo a Federico che dice: complimenti per la legalizzazione della camorra. Prima di leggere certe bestialità, pensa chi ha dato la vita a causa della camorra. Guarda Federico, è chiaro che non era mia intenzione, però soprattutto non credo che dire che la camorra dà sicurezza sia come legalizzarla. Per, diciamo, evitare di inciampare in questa cosa, io chiedo a una persona che ne sa sicuramente più di me, che in questo momento è in collegamento dalle Mezze Terme, ma è della famiglia, che è Raffaella Calandra. Pronto Raffaella? Ciao Matteo, ciao, buongiorno. Ciao a te, nostro ascoltatore. Mi confermi che, insomma, dire che la camorra dà sicurezza non significa legalizzarla? No, significa ammettere una trista verità, perché in alcuni quartieri le cosche, i clan, diciamo, fanno sì che non ci siano quei reati che sono quelli che danno, quelli più immediatamente percepibili, gli scippi, le rapine, i furti nelle case, perché solo così, garantendo quel silenzio, diciamo, sulla microcriminalità, che poi non è neanche tanto micro, in alcune zone possono più facilmente gestire i loro affari. E spesso succede che in alcuni quartieri, dipende anche dal tipo di clan, dalle zone, sì, ma comunque in alcuni quartieri laddove c'è una forte presenza di un certo tipo di mafie non succedono piccoli reati. Questo è un grande classico. Ovviamente i reati ne consumano, ne fanno di peggiori, certo, ma quelli piccoli, quelli che a volte sono più immediatamente percepibili al turista o a chi passa in alcuni quartieri, ecco, quelli a volte non succedono. Raffaella, spiego velocemente perché sei alla Mezzia Terme. Insomma, ti trovi lì perché c'è la terza edizione di Trame, che è il festival dei libri sulle mafie di cui Radio 24 è media partner. Ci racconti velocemente che cosa accade, di cosa si parla al festival, e poi magari ti chiedo anche di guardare al contrario la storia di oggi, cioè un milanese che va a Napoli e scopre la camorra, cosa scoprirebbe un napoletano che viene a Milano invece? Questa è una domanda complicata. Allora, la prima, Trame è nata come una sfida, perché è stata la sfida della parola, quindi raccontare le mafie nella terra dell''ndrangheta, cioè nella terra della mafia in questo momento più potente al mondo, che però soffoca una delle regioni più povere d'Italia. Trame sono 5 giorni alla Mezzia Terme, dove ci susseguono incontri che hanno il filo conduttore della legalità, quindi diventa un punto di incontro di magistrati, giornalisti, scrittori, sindaci, dove il tema della legalità è portato anche attraverso altre forme, diciamo, di espressione culturale. Ad esempio ci sono delle bellissime mani di Chiara Rapaccini in una fontana qui della Mezzia Terme, oppure attraverso le parole parole del cinema e della musica, quanto a delle storie diverse. Io potrei raccontarti la storia che io considero, quella di cui parlerò nel dibattito di questa sera qui a Trame, la storia della rimozione della memoria di Milano, che la trovo interessante per fare un po' da contraltare alla storia napoletana che avete raccontato, perché è la storia che la storia parte da un libro che racconta e prova come Milano abbia di fatto dimenticato completamente di aver da anni, da decenni, diciamo cresciuto nel suo seno tutte le infiltrazioni, soprattutto della 'ndrangheta. Milano infatti sembra essersi ricordata di aver scoperto di avere la 'ndrangheta in casa quando 3 anni fa ci sono stati 300 arresti tra Lombardia e Calabria. A quel punto non se ne poteva fare più a meno. Certo. Ma in realtà erano già dagli anni 70 e 80 che le cosche, soprattutto calabresi, in Lombardia e a Milano controllavano fette importanti lo spaccio di droga, ad esempio, e di altri affari, e c'è un pentito, Emilio Di Giovine, che le racconta, e racconta ad esempio come controllassero una piazza importante di Milano come Piazza Prealpi, e in quel caso, proprio perché loro la controllavano, facevano sì, e vendevano droga, facevano sì che in quella piazza non ci fossero però diciamo né i piccoli spacciatori né le persone che diciamo consumassero la droga, proprio perché volevano che in quella stessa piazza non, la gente non percepisse, diciamo, quella presenza di insicurezza. Okay. Però ecco, la controllavano, e la controllavano molto forte, quindi a voler dire che già negli anni 70 e 80, e questo è un caso perché è il nome di un boss importante che poi si è pentito, ha collaborato con la giustizia e ora racconta la sua storia alla figlia in un libro, ma come lui ce ne sono stati degli altri casi di altri boss, storie di altre inchieste che però Milano ha come un po' dimenticato, o forse bisognerebbe dire rimosso, rifacendosi diciamo completamente la faccia. E a un certo punto è sembrata quasi aver scoperto di avere la 'ndrangheta in casa nel luglio del 2010. In realtà invece non è stato così, perché c'è da molto prima. Quindi questo forse può fare da contraltare ad una storia di una che proveniva da una che proveniva da Milano, da una città come Napoli. Esatto, sì, insomma, il contrario, Milano-Napoli, Napoli-Milano, in qualche modo, sud-sud, nord-nord e sud. Raffaele, poi ti saluto, ci dici un paio delle cose che succedono in questi giorni a Trame e poi ti lascio andare ai tuoi appuntamenti. Tra le altre parleranno le sindachesse di Monasterace e di Rosarno, che sono due sindachesse che sono diventate dei simboli dell'antimafia, ma perché hanno imposto il rispetto della legalità, una cosa molto semplice, il rispetto del pagamento delle bollette, cioè dei servizi normali, sì, e sono finiti nel mirino delle cosche. Okay. Verrà il ministro della cultura, Brai, a parlare anche dell'importanza di portare cultura e scuola nelle terre così soffocate dalle mafie. C'è musica, se cinema, ci sono okay, tantissimi magistrati, insomma un programma fitto che okay, la mettiamo anche sul sito e sul blog. Dal 19, cioè da ieri fino al 23 di giugno, la terza edizione di Trame alla Lamezia Terme. Grazie ancora Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Grazie, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti quelli che hanno scritto in qualche modo, che hanno raccontato il loro pezzo di Napoli, grazie a Gianmarco Ferronato, oggi per la prima volta dall'altra parte del vetro, grazie a Margherita Ina e a Tiziano Bonini. Io vi ricordo, scaricate l'ebook nuovo di questa nuova edizione del programma dal sito di Radio 24, dalla nostra pagina di Voi Siete Qui. Io ringrazio anche e soprattutto Giuliano, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Laura, vivo a Roma, la storia di domani era mia e targa di Campetti. Questa è la mia storia e io sono qui.